Il punto di Stefano Folli. Che il voto di domenica in Sicilia serva a dare alla regione una buona amministrazione è dubbio, chiunque vinca, visto lo stato di profondo malessere in cui versano le istituzioni e le finanze dell'isola, frutto di anni di cattivo governo, a dir poco. Ma che il voto abbia un significato politico rilevante a livello nazionale è sicuro. Ed ecco perché tutti in queste ore guardano a Palermo, compresi coloro che ancora pensano che sia possibile avere una riforma elettorale prima della fine della legislatura. In Sicilia verificheremo se il Partito Democratico è in grado di ottenere un successo in alleanza con Casini. Entrambi appoggiano Crocetta. Ma capiremo anche se Alfano, che gioca in casa, è in grado di vincere una competizione, appoggia Musumeci, ciò che gli darebbe una spinta per le primarie del PDL. Valuteremo insomma molti aspetti ancora incerti, non ultimo la capacità effettiva di Beppe Grillo di farsi votare lontano dai suoi territori preferiti del centro-nord. Un exploit della lista antisistema avrebbe sicuramente un significato molto forte sul piano nazionale.